Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La mia vita è stata un'odissea, di qua, di là, in giro per il mondo. Un bel giorno me ne andai a Genova perché avevo optato per il mare e là mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Insomma, ho cercato di fare ogni tipo di esperienza perché secondo me la vita va proprio vissuta proprio in maniera totale, globale. Non so se mi intendi. Inoltre penso che la vita sia fatta di incontri e di addii. E infatti fu proprio un addio a dover decidere il corso della mia vita. Un bel giorno a Bombay ti incontro una ragazza, mezza cinese, mezza giapponese, insomma di quelle parti là. Una gran bella ragazza. Ci siamo. L'umanità viene divisa in maniera drastica e manichea, implacabile e impietosa. Coloro che già stanno da settimane, se non da mesi, pubblicamente discutendo sugli itinerari delle loro future vacanze, sciorinando attraverso i loro smartphone itinerari, prenotazioni, voli, soggiorni, luoghi ameni, ricordando ad alta voce in tutti i caffè, Nescafè, luoghi di incontro, aperitivi, apericene, quanto sono stati bene l'anno precedente, in posti bellissimi, tutti con le carte di credito pronte in mano per pagare l'anticipo e andare felici e contenti, e quelli che non se lo possono permettere. Quelli che devono lavorare sull'escamotage, quelli che devono fingere. Nella frangia più estrema ci si chiude in casa con provviste, frigo pieno, stiano giù le tapparelle e si mandano molti messaggi via Twitter, via Facebook, con foto preconfezionate, con particolari anatomici molto ravvicinati, millantando di essere in luoghi lontani, ameni e dispendiosi, e si passa il tempo così. Gli altri, i più ardimentosi, quelli che non hanno case di nonne, di zie, baracche, catapecchie, amici preti e via dicendo, devono naturalmente arrangiare. E qui entra in gioco la classica vacanza squallida, o vacanza rischiosa o vacanza massacro, che si fa con pochissimi soldi e tanta buona volontà. Quali sono le risorse che potete mettere sul campo per la vostra vacanza senza soldi? Beh, io oggi vi metterò a disposizione un esperto che ha compilato una sorta di vademecum che fornisce 50 risposte alle vostre domande. 50 cose che voi sicuramente sapete farne una di queste 50. Avete dei talenti nascosti, talenti che tutti i giorni applicate nella vostra vita quotidiana e non sapete, può essere la risorsa della grande svolta. Anche voi, come quelli che possono, potrete andare in vacanza facendo cosa? Non so, magari siete capaci a risolare le scarpe. Benissimo, facendo i ciabattini potrete comunque andare in un paese in cui ha un valore questa vostra attività. Sapete cucinare bene, ma cucinare bene nel senso cucinare bene, non millantare, non fare finta, no? Il solito italiano che va all'estero, ti faccio gli spaghetti, e fa una ciofega e tanto non se ne accorgono, non sanno che quell'orrendo pappone nulla a che fare con un piatto di spaghetti con il pomodoro. No, qualcosa che sapete fare, non so, sapete ballare il ballo latinoamericano, bravi, andate in un villaggio vacanze e vi offrite come insegnante di ballo latinoamericano. Siete degli esperti massaggiatori barra massaggiatrici, ma nel senso vero della parola, sapete fare massaggi, non soltanto qualche smanettata alla cinese come con 5 euro chiunque può fare in qualunque sobborgo di qualunque città italiana. Beh, potete offrirvi per fare i massaggi, ma ci sono tante cose che potete fare di ordine quotidiano, potete fare qualcosa che nemmeno immaginate quanto potrà aiutarvi nelle vostre probabili vacanze squallide, che saranno meno squallide. Ma non soltanto adesso per il periodo estivo, naturalmente questa formula del quello che so fare è un valore, quindi posso finanziarmi un mio soggiorno all'estero, una vacanza studio, un viaggio, una volontà di transumanza per sfuggire alla routine quotidiana. Beh, oggi vi spiegherò come, ma voi aiutatemi, ditemi in cosa siete veramente bravi, una cosa assurda, qualsiasi, anche a scaccolarvi. Può essere che esista un paese del mondo che questo rappresenta un valore. 800240024. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Io, per esempio, cosa so fare nella vita? Per partire da esempio personale, ma so fare un po' di tutto. So aggiustare i lavandini, so aggiustare gli scarichi, mi arrangio comunque in piccoli lavori di bricolage, sono un umarel sin dall'età adolescenziale, maneggio bene strumenti di falegnameria, di meccanica, di aggiustaggio vario, potrò offrirmi per fare dei lavoretti in casa, già sarebbe qualcosa. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Ogni tanto qualche amico, qualche amica mi dice: ma mi vieni a smontare la cassetta Geberit a casa, so che tu sai farlo, l'ho visto su Facebook. Io volentieri, se qualcuno me lo chiede, mi presto, fino a smontare la cipolla di una doccia e togliere il calcare, non ci vuole niente. Qualcuno chiama l'idraulico anche per questa stupidaggine. Questo è il mio primo talento che metterei a disposizione. Per paradosso, chi potrebbe ospitarmi una settimanella a tenere i piedi a mollo? Io magari gli do un'aggiustata alla casa, a fare dei piccoli lavoretti. Già, vediamo se questa cosa funziona. Elia, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Niente, io la chiamavo perché appunto, sapendo fare il calzolaio, quindi come mestiere... Ma lei è proprio calzolaio o lo fa come hobby? No, proprio calzolaio come lavoro. E quindi l'idea di poter, diciamo, aiutare col saper fare un mestiere e in cambio ricevere magari un'ospitalità o qualcosa, insomma, mi sembrava un'idea molto interessante. Creiamo una case history. Lei la prima telefonata. Luca, lei... Per muoversi, di che tipo di attrezzatura avrebbe bisogno? Cioè, cosa si può portare dietro per poter svolgere il suo... Perché, diciamo, un negozio da calzolaio c'è tanta roba. La valigetta che si porterebbe dietro per fare il suo lavoro, cosa conterrebbe? Allora, conterrebbe martelli, chiodi, colla e carta vetrata. Basta quello? Beh, un po' di suole di ricambio, tacchi di ricambio. Sì, no, beh, ovvio che i pezzi di ricambio, come le gomme, quelle lì che sono già comunque preassemblati, quelli si possono portare. Sì, un trincetto, quindi un coltellino per poter... Vedo già un problema, all'aeroporto non passerebbe questa roba, dovrebbe spedire, perché trincetto la fermano subito e l'arrestano, perché taglia. Se prevede comunque un viaggio, diciamo, con l'aereo, ma muovendosi magari o con la macchina o con il treno, il problema, insomma, si ovvierebbe. Allora Elia, resti in ascolto perché la pongo a caldo la domanda all'ospite che avevo annunciato. Massimo Dall'Aglio, buongiorno. Buongiorno. Allora, Massimo Dall'Aglio è un giornalista, è autore del libro Viaggiare senza soldi, i mestieri utili per viaggiare e lavorare in tutto il mondo, Jacobelli Editore, ne elenca 50. Ricordo che Dall'Aglio è fondatore del sito mollotutto.com, sono 18 anni che lui riporta esperienze di viaggio fatte da chiunque, porta informazioni utili come viaggiare meglio, come sparire dal mondo e via dicendo. Allora, Massimo Dall'Aglio, un ciabattino avrebbe possibilità di mantenersi in un viaggio, in una vacanza all'estero? Allora, io parlo non per esperienza diretta, ma per esperienze ricevute da tante persone, e purtroppo non ho avuto testimonianze di ciabattini in giro per il mondo. Quindi però ha un valore, poi, perché nessuno lo fa. Ha un valore, viene fatto un mestiere ovviamente che esiste in tutto il mondo. Ritengo, una mia congettura a questo punto, che potrebbe essere una di quelle attività che rientrano negli scambi alla pari, cioè gli famosi upair, il giardiniere, il ciabattino, quelli che svolgono delle attività in cambio di vitto e alloggio. Come funziona, il patto? Perché non proprio il ciabattino, ma mestieri che rientrano in quest'area, lei li ha citati nel suo libro. Vediamo di capire. Costruendolo adesso, all'impronta, visto ci affidiamo anche un pochino alle esperienze reciproche, secondo lei cosa potrebbe fare, dovrebbe fare? Quale sarebbe, se venisse a lei il nostro amico ciabattino e dicesse: guarda, io so far questo, come posso in qualche maniera entrare in un circuito, almeno per tastare il polso e capire se la mia attività ha un valore? Allora, io penso che ci siano questi siti che richiedono soprattutto persone piuttosto giovani e adattabili. Per esempio gli ostelli, in alcuni ostelli in giro per il mondo possono alloggiare persone in cambio di lavori, quali reception, quali comunque fare pulizie o tinteggiare o comunque lavori di manutenzione del piccolo hotel o dell'ostello. Questo, mi scusami, per persone che avessero capacità minime manuali, capaci a dare la tinta a una parete, rimettere a posto l'intonaco e via dicendo, già è aperta questa possibilità, già loro in teoria potrebbero lavorare, andare a cambio lavoro a fare delle vacanze? Sì, esattamente, questa è una voce che ho proprio citato nel libro, e si parla proprio degli scambi alla pari, degli upair, scambio il lavoro in cambio di vitto e alloggio. Praticamente non è un vero lavoro, perché quelli sono proprio citati nei primi capitoli e sono una cinquantina che avevi preannunciato prima, e sono di altra natura, cioè richiedono comunque una... Cioè, per esempio, ne ho citati alcuni che sono quelli fra i più diffusi, come il bartender, altrimenti detto barista, o il croupier, o il personal trainer, l'istruttore di sub, la guida turistica, l'animatore turistico, il quale avevi citato prima. Questi sono quelli che sono più diffusi, che ti permettono di poter permanere all'estero magari 6 mesi in una località e poi nulla ti vieta di dire: beh, adesso ho ricevuto un'offerta per la medesima posizione da un'altra parte, quindi ecco che viaggio facendo il mio mestiere. Sì, diciamo che sono persone che dovranno presentare un minimo di qualifica, degli intrattenitori di Villaggio Vacanza, non è che ti prendono, penso, sì, così, sì, a scatola chiusa. È proprio così, sono tutti mestieri ai quali si accede tramite dei corsi delle volte durano un mese, delle volte durano 6 mesi, dipende dalla tipologia, e addirittura ci sono licenze, come appunto citiamo l'istruttore di sub. È piuttosto complicato arrivare all'istruttore di sub, si parte da una licenza, diciamo, di base, per arrivare sempre a quella da istruttore, eccetera. Alcuni più semplici, alcuni più complicati, però tutti hanno questa cosa in comune di poterti permettere di accedere a questo tipo di mestiere in tutto il mondo. Io ho specificato all'inizio che è chiaro che questo stile di vita non ti permette di andare a costruire delle certezze, da stabilire, diciamo, fare una base. È per il periodo di un viaggio, diciamo, cercare di massimalizzare una cosa che si sa fare. Vediamo di uscire un attimo dalle specializzazioni. Ad esempio, vengono richieste anche, diciamo, delle super babysitter o badanti di bambini e via dicendo, che è un mestiere, sì, che richiede alte qualificazioni se fatto per un periodo duraturo in una struttura pubblica e via dicendo, ma una ragazza che avesse voglia di viaggiare non se lo può permettere e fosse disposta, magari perché ha avuto dei fratelli, ha avuto delle istruzioni in famiglia, a occuparsi di bambini altrui, avrebbe delle chance? Assolutamente sì, è richiesta la conoscenza delle lingue, più lingue, in modo molto, molto approfondito, e soprattutto è richiesta anche competenze in grado di fare qualsiasi cosa. Sono soprattutto diffuse nel mondo anglosassone, un poco nel mondo latino, però io nel libro ho citato tutte proprio i siti, i corsi e le testimonianze di chi fa questo tipo di attività. Addirittura ho visto anche il prestigiatore, uno che intratteneva gli amici a casa facendo i giochetti a Capodanno con il piccolo, con la scatola di Silvan che gli hanno regalato. Se si attrezza un po' meglio può andare in giro per il mondo facendo il prestigiatore. Diciamo che non è che può, c'è la possibilità. In Italia noi fino a qualche anno fa, adesso abbiamo visto in Italia sono arrivati, grazie a presentati a Gerry Scotti e Walter Rolfo, il Master of Magic. È stato sdoganato il mago da quella figura della persona in giacca o in smoking che tirava fuori il coniglio dal cilindro, ed è diventato un personaggio anche fashion, diciamo così, una star. Ma lui era già prima nel mondo, negli Stati Uniti, in Inghilterra, venivano, cioè i maghi hanno un maghi prestigiatori o illusionisti hanno avuto un ruolo da vere star. Ricordiamo il marito di Claudia Schiffer, che lo era già proprio tanti anni prima, quando noi eravamo ancora al mago che David Copperfield, lui era. Sì, beh, faceva, esatto, scomparire le porte aeree, esatto. Era un virtuoso. Fermati un attimo, abbiamo già qualche ascoltatore. 800 24 00 24, vorrei integrare quello che è il compendio scritto da Massimo Dall'Aglio con quelle che sono probabili e possibili suggerimenti da parte degli ascoltatori. Riccardo, sì, cosa sai pronto fare e di cosa, niente, ti vuoi mantenere? Io mi proponevo per un corso di pesca. So insegnare a pescare. Con la lenza, con le reti, con la mosca? Nodi, no, con la lenza, con la canna, vari tipi di pesca, spinning, pesca a fondo, pesca galleggiante. Un corso di pesca si inizia di solito con i bambini. Poi qui potresti insegnare ai bambini con delle piccole canne a pescare. Esatto. Vediamo, questa è una, mettiamola da parte, poi sentiamo Dall'Aglio. Maurizio invece cosa sai fare? Sì, buongiorno, guardi, io attualmente faccio il camionista, però per più di 20 anni ho fatto il mobiliere e montavo mobili. Io ho notato che molti mi danno ragione, girando le pensioni, alberghi, 2 stelle, 3 stelle, non di più, che non per me, ho le ante che non si chiudono, ho il cassetto che cade, ho la griglia dello scolapiatti che va giù, il tavolo che balla, tutti i lavoretti che nessuno va mai a fare. Io le farei volentieri quando ero in pensione, e se avanti così cambiano le leggi ci danno i buoni pasto, se va bene. Ah, quindi, Maurizio, teniamoci l'argomento, non è che voglia censurare la giusta protesta, però lei sa fare il riparatore. Lei dice: potrei dire a un albergo, a una pensione, mi tenete a pensione per una settimana, in cambio vi faccio il giro di tutte le stanze, vi aggiusto le cerniere, la piccola manutenzione che nessuno fa. Infatti ogni anno io trovo gli stessi difetti in tanti posti che ho girato, perché comunque non è che... Lo scarico che fa rumore, il rubinetto che non chiude, il cassetto che rimane incastrato, il letto che balla. Perfetto, sentiamo Massimo Dall'Aglio. Queste due alte professionalità, il pescatore che può insegnare a usare la canna e l'aggiustatore che può aggiustare gli alberghi, secondo te, dalla tua esperienza, avrebbero delle chance e cosa dovrebbero fare? A chi dovrebbero rivolgersi? Allora, secondo la mia esperienza, proprio tutte le testimonianze che ho ricevuto, sia online tramite proprio le email, ma anche tramite Facebook, abbiamo una pagina da oltre 300.000 fan, per cui di testimonianze ne arrivano tante. Purtroppo rientrano sempre, il manutentore rientra nel upair, cioè nello scambio alla pari, persone che possono fare gli house manager di proprietà e quindi vengono alloggiati e sono, diciamo, poi custodi, che però si devono occupare di tutte le proprietà. Spesso può essere previsto un piccolo stipendio, ma più che altro sono persone che fanno proprio questi scambi alla pari periodici. E invece sul pescatore, l'insegnante di pesca non ho, a parte pesca subacquea, quindi che rientra sempre magari in una... Non ha mercato. In una specializzazione dell'istruttore di sub, quindi può fare... non ho avuto proprio delle ricorrenze di questo tipo, mi spiace. Ti posso dire una cosa, poi ci fermiamo un attimo a dare le informazioni per la borsa. La reazione delle persone che scrivono via SMS sono reazioni più di pancia, gente non è che ha voglia di parlare, ma dice la sua e spara la sua, è quella, dice: ma se non andiamo in vacanza perché devo lavorare? Quasi ridono il fatto che delle persone, per permettersi l'esperienza di un viaggio, siano disposti a lavorare. Dice: ma non voglio lavorare, se vado in vacanza non voglio lavorare, quindi è meglio stare a casa. Riconosci questo atteggiamento qualcosa di tipicamente nostro, geneticamente italiano? Assolutamente sì, anche perché c'è una frase di, non mi ricordo quale, Confucio o un filosofo antico, che disse: se il tuo lavoro coincide con quello che è la tua passione, non lavorerai neanche un giorno nella tua vita. Ecco, quanti di noi aspettano di andare in pensione, aspettano che arrivi il sabato e la domenica per dire sono in vacanza, ma in realtà fai un'attività che ti piace, come l'andare a pesca, l'andare a correre, l'andare in moto o che ne so, andare in palestra. Certo. Anche io leggo e scrivo durante le vacanze. Leggere e scrivere, appunto, ci sono attività che noi riteniamo i nostri hobby, ma quando i nostri hobby diventano, diciamo, un'attività, li possiamo chiamare lavoro. Vabbè, inutile, no? Allora, se odiate in genere l'idea che considerate il lavoro una schiavitù, è chiaro, in vacanza ci andate soltanto se riuscite a prenotare in tempo la pensioncina o il viaggio fantastico, e potete stare spaparanzati a farvi massaggiare, stare nei fanghi e dire: io mi rilasso. A tra un istante. Banca Mediolanum, costruite intorno a te, vi presenta come si trasforma una buona idea in un progetto di successo con l'innovazione, la creatività e la condivisione. Il sabato mattina Radio 24 diventa la voce del crowdfunding con Crowd Me Up, la rubrica dove le buone idee incontrano ottimi sostenitori. In collaborazione con Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding, e Back to Work 24. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Il sabato alle 9.30 all'interno di Si Può Fare. Con Alessio Maurizi. Melog. Cronache meridiane. Stiamo cercando di capire come sia possibile viaggiare anche se non si ha un budget a propria disposizione, mettendo a frutto quelli che sono i propri talenti, le proprie professioni, le cose che si sanno fare. Stanno telefonando ascoltatori proponendo quello che loro potrebbero fare, ma manca loro il contatto, sapere come mettere a frutto il loro talento. Lo facciamo oggi, questa sorta di raccordo, grazie a Massimo Dall'Aglio, che ha scritto Viaggiare senza soldi, i mestieri utili per viaggiare e lavorare in tutto il mondo. Sentiamo altri due ascoltatori, poi passiamo a Massimo Dall'Aglio, perché ho delle domande da fare sui suoi compendi che sono molto interessanti. Sergio, buongiorno. Sergio, Sergio è inascoltabile. Ah, ecco Sergio, l'abbiamo ascoltato. Sergio, lei come ha risolto il problema di mettere a frutto un suo talento? Cosa sa fare e come l'ha messo, diciamo, in pratica? Un idraulico, ho fatto l'idraulico per tutta la vita. Cioè, vero, non come me che mi arrangio, cioè un vero idraulico. No, un vero idraulico anche con un certo numero di dipendenti. Ora sono in pensione, la ditta la conduce mio figlio, quindi mi sono ritirato. Sono andato per raccontare la mia storia, sono andato per vacanze in Uruguay, precisamente a Montevideo, e sono finito in un piccolissimo albergo, e sono finito nel bel mezzo di un caos, perché gli si erano rotte le condotte dell'acqua per l'acqua calda negli appartamenti ed era un mezzo allagato. Erano la disperazione, io mi sono offerto, perché sapevo fare l'idraulico, dicendo: ragazzi, io faccio l'idraulico in Italia, se volete vi do una mano, cerco quantomeno di tamponare, di risolvere. E in cambio cosa le hanno dato? Mi hanno dato una settimana di soggiorno. Beh, e da lì ho cominciato a pensare: ma Dio buono, ma perché io non sfrutto il mio mestiere, mi offro dove serve? No, mi faccio capire, non mi interessa molto la casistori. Dunque, in Uruguay non avevano un idraulico a disposizione capace di risolvere? Non è che non avessero l'idraulico capace di risolvere, questo non lo so. Non avevano l'idraulico a disposizione, siccome questo era proprio un tubo. E l'attrezzatura come ha fatto? Come se l'hai procurata? L'attrezzatura l'ho procurata, una parte l'avevo l'albergo, l'altra parte, e quindi ho tamponato e ho chiuso e ho risolto il problema immediatamente. Poi quando io mi sono offerto di sostituire tutta la colonna, questi mi hanno guardato un po' e poi mi hanno detto: va bene, se ce la sente lo faccia. Io sono andato in giro, ho trovato tutto quello che mi serviva. Ci sono i cinesi anche in Uruguay? Purtroppo sì. E quindi è andato da un cinese, ha fatto il pieno. Ho preso tutto quello che mi poteva servire e sono andato là, ho risolto il problema. Quante ore di lavoro hai impiegato per capire? Per fare tutto, per risolvere il problema, ho impiegato circa un'ora più o meno. Poi dopo, per cambiare la colonna, ci ho messo un giorno e mezzo. Quindi, diciamo, a tariffa a quanto corrisponde? Facciamo per capire quanto... In Italia corrisponderebbe grosso modo a un 500 euro, 400 euro, 500 euro, compreso il materiale. Ecco, loro le hanno dato una settimana di soggiorno. Ma hanno trattato come un principe. Proprio veramente. Quindi benissimo. Tutto sommato le è andata bene, è stato un vantaggio, non è che è stato grande. Quindi sì, molto grande. Lei potrebbe mettere su una piccola idea di dire: io vado a viaggiare e metto a posto, perché ogni albergo ha bisogno di... L'ho fatto io, attenzione. Ah, poi sono andato in Cile, sì, a Santiago del Cile, in un piccolo albergo in via Venezia, un bellissimo albergo, avevo dei problemi su una caldaia, ho sistemato questa, e io stesso ho ripreso altri 10 giorni di... Però lì ci ho lavorato molto di più, 4 giorni. Ma lei come si propone adesso? Ha fatto un sito? Adesso praticamente no, non mi propongo niente, perché l'ho usato per questi anni che ho viaggiato, adesso viaggio molto molto meno e quindi non mi interessa. Comunque l'idraulico è richiesto, che negli alberghi c'è molto, sempre bisogno. Molto molto molto, molto interessante, molto. Sentiamo Giovanna. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, allora io vivo a Roma e sono stata un pochino di tempo in Thailandia, dove ho imparato a fare massaggi thailandesi. Mi è venuto l'uzzolo di andare a Venezia e non avevo voglia di spendere granché, ho preso internet, ho visto su Airbnb quali erano i possibili alberghi che potessero fare al caso mio, ho telefonato, mi hanno offerto in almeno 10 di darmi un soggiorno gratuito in cambio di questi massaggi thailandesi. Me le hanno chiesto qualche titolo, qualche qualifica, si sono fidati? Assolutamente no, assolutamente no. Diciamo che non è che hanno equivocato, parlando. No, no, assolutamente. Che pensavano, diciamo, a una sorta di formula in realtà. No, assolutamente no, guardi, assolutamente. Le hanno chiesto, lei è disposta a tutto, no? No, assolutamente. Allora è proprio no. Una seria... Mi hanno solo chiesto: lei fa massaggi thailandesi? Sì, come si svolgono? Dico, sono un pochino... No, diverse. Perché nel gergo corrisponde a massaggio romantico, che è un'altra cosa, solo per capire. Sì, infatti, perché ci vuole l'olio essenziale, certo. Ci vuole la luce delle candele. Chiaro. Certo, è un massaggio, diciamo, particolare. E lei si porta da casa valigetta con l'olio e le candele? Ma no, soltanto l'olio essenziale, le candele le trovo in ogni dove. Le dice: le candele procuratele voi, io porto l'olio. Non c'è bisogno, basta che ci sia una luce soffusa di candele. Comunque è stata un'esperienza deliziosa. Fantastico. Da ripetere quando si vuole. Perfetto, allora sia l'amica Giovanna che l'ascoltatore idraulico che ha chiamato prima ci hanno dimostrato che è possibile. Allora torniamo a Massimo Dall'Aglio. Hai sentito innanzitutto? Ho sentito tutto e assolutamente sono contento che ci siano queste testimonianze, anzi invito Sergio a contattarmi a info@mollotutto.com perché mi piacerebbe anche pubblicare la sua testimonianza. Ma dopo ti passiamo noi i riferimenti, ti mettiamo in contatto. Nel tuo libro però, ecco, dividi per argomenti queste possibilità, perché non può essere sempre affidato al caso. Cioè, i lavori che consentono di viaggiare, l'hai detto, sono quelli più specifici legati all'accoglienza, il cameriere, il barman, quella che sa fare il trucco, il make up, la ragazza alla pari, il prestigiatore, via dicendo. Ci sono altri lavori che però sono altamente specializzati, come l'hai detto, sono come potrebbe essere appunto, non so, vedo scritto di tu, il reporter, il fotografo, la guardia del corpo, il mercenario, l'attore, lo stuntman. Ecco, spiegami queste che sono professioni di lato artistico creativo, come possono essere reimpiegate poi in un paese straniero. Beh, è molto semplice, cioè praticamente raccogliendo le testimonianze di alcuni attori, alcuni cantanti che hanno iniziato la loro carriera in Italia, poi hanno visto che per un motivo o per l'altro, andando all'estero, sempre con la conoscenza dell'inglese, soprattutto negli Stati Uniti, riescono a fare degli scatti di carriera molto più velocemente. Parliamo proprio della meritocrazia, insomma, la bravura ti consente di arrivare a posizioni dove magari qua non hanno detto da loro non era possibile. Ecco, se sei convinto di essere bravo e sai le lingue, che è fondamentale, tu metti un capitolo alla fine e dici come imparare l'inglese, che è fantastico, dice, non lo studiate, non studiate la grammatica, non studiate le parole, ma ascoltate più possibile parlare in inglese, e tu spieghi come tecnicamente uno deve buttarsi, che è importante. Ma se sai bene le lingue, base l'inglese, e tu fai l'attore, il giornalista, dei lavori che ti trovi sottostimato, se vai all'estero può essere il tuo talento sia veramente riconosciuto. Questa è la sintesi. Sì, la sintesi è quella. È chiaro che non devono mancare le competenze, la bravura e l'eccellenza. Non è, diciamo che è possibile, non è che è dovuto, però se sei una persona che ha dei numeri, diciamo così, hai più possibilità in diversi paesi del mondo. Ma io ci tenevo a raccontare una cosa. Praticamente questa idea di raccontare il viaggiare senza soldi non è venuta a me personalmente, mi è venuta leggendo le testimonianze di persone, soprattutto di una persona, Luca, che è stato fantastico perché ha girato 11 anni per il mondo facendo non mi ricordo più quanti mestieri, tipo 24, e lui era partito con il biglietto di un traghetto da Genova alle Canarie, se non mi sbaglio, per fare il suo primo mestiere, che era quello della compagnia dell'animatore turistico. Animatore turistico in un villaggio. Poi, permanendo lì alle Canarie per un po', notò che ci erano altre opportunità, di altri tipi di lavori. Quindi dopo qualche mese cambia, e ha girato dalla Thailandia agli Stati Uniti, all'Indonesia, Australia, tutto il mondo, sempre lavorando. E questo è il concetto, cioè passare dal concetto di vacanza al concetto di viaggiare lavorando, che non è proprio la vacanza, quel dire io spendo tot soldi in un arco di tempo, quando li ho finiti, o ho finito le ferie, o ho finito i soldi, o ho finito entrambi, ritorno. Ma quindi un nuovo stile di vita, che lavori sempre, però in una maniera, diciamo, diversa da quella. Certo, va sdrammatizzato il senso che abbiamo, esatto, del tempo. Sono persone che decidono, certo, a un certo punto, che la qualità di vita prevale su qualsiasi altra frenesia. Dico, io c'ho la vita davanti di tempo e me la prendo comoda, perché sennò altrimenti, sai, le vacanze contingentate, se devi dare il cambio al collega, che se non arrivi entro la mattina del giorno tot va in crisi tutto l'apparato, è un po' più difficile. Concludo raccontando un'esperienza che mi è accaduta proprio l'altro giorno. Un'amica, velocemente, ospita a casa sua un parente, un nipote lontano che viene dal Canada, che però ha studiato negli Stati Uniti, un ragazzo di ottima famiglia benestante, lui stesso ha preso vari titoli e varie lauree. Appena arrivato a Roma è andato in questura, si è fatto dare il permesso, tutte le sere, siccome è un musicista, sa suonare bene, tutte le sere va a suonare, torna a casa con 30-40 euro, niente di più, va a suonare per le strade di Roma, perfettamente legale, e dice alla zia, dice, zia, non è che mi mancano i soldi, io che ho, siccome sto fuori, me li voglio guadagnare. Quindi ha messo a frutto, si diverte, rimedia ragazze, fa di tutto, tromba come un matto, però il suo primo pensiero arrivato a Roma è andare in questura, prendere il permesso per mettere a frutto una sua qualità. 800 24 00 24. Melog, Cronache Meridiane. Io ancora mi stupisco che le informazioni del traffico devono, ahimè, raccontarci che c'è un incidente stradale, una cosa che ci rattrista, e ci sono quindi delle code, ma anche nella corsa opposta ci sono le code perché la gente deve per forza impicciarsi e guardare quello che succede dall'altra parte, quindi creano comunque un disagio anche nella corsa in cui non ci sarebbe nessun problema. 800 24 00 24, come cambiare possibilmente l'idea del periodo di vacanza, breve o lungo, ma maledetto, preordinato, stabilito, programmato mesi prima, trovare l'occasione migliore, partire così, partire alla deriva sapendo che comunque sopravviverai, perché sai fare qualcosa e metti a disposizione di chi ti potrebbe ospitare quello che tu sai fare. Questa è la sintesi di un libro, Viaggiare senza soldi, di Massimo Dall'Aglio, che abbiamo oggi ospite con noi. Alessandra, buongiorno. Ciao Gianluca. Ascolto. Allora, la mia esperienza è questa: un agriturismo in una settimana gratis in cambio di conversazioni filosofiche. Ma questo dove? In che posto del mondo? Confine Umbria Marche. Quindi, ma questo come sapeva che tu... Ma tu sei un... Io sono marchigiana, andavo lì a pranzo. E sei un insegnante di filosofia, storia e filosofia. Insegnante di filosofia e ho proposto questa cosa, insomma. E è stata accettata, per cui una settimana, verso fine agosto, sono andata e ho fatto queste conversazioni filosofiche in cambio avevo questa vacanza. No, interessante, che l'hanno riproposto in piccolo quello che ormai in tante città si fanno, questi certamen filosofici, chiamano comunque dei mostri del pensiero internazionale che fanno delle grandi concioni e i signori villeggianti sono molto appagati del fatto che hanno questa occasione di attingere dalla viva fonte della saggezza del pensiero. Ma tu in realtà cosa c'hai? Chi c'avevi davanti e cosa significa le conversazioni filosofiche che hai fatto tu? Spiegami. Allora, questo era abbastanza curioso perché chiaramente gli utenti erano assolutamente un pubblico eterogeneo, tutti piuttosto adulti. Cioè c'erano tutti vecchi, diciamo la verità. E quindi quelli sedevi lì, qualunque cosa stavano a sentirti, sì, tanto ma veramente lo spunto doveva essere il cibo inizialmente. Però la cosa curiosa è che in realtà loro si sono mostrati molto più interessati rispetto agli alunni, che in genere sono piuttosto passivi prima di essere introdotti alla materia, diciamo. Per cui prendevamo uno spunto dal cibo e loro arrivavano direttamente alla metafisica. Erano più interessati, erano più vicini alla morte che ai ragazzi, quindi si volevano delle risposte: dove andremo, che sarà di noi, che ci sarà di là. Questa. E tu a cosa ti sei spiegato? Quale filone della filosofia, quale area hai usato? Perché la metafisica è un tema... Io ho sempre cercato, diciamo, di virare anche sull'ironico, per drammatizzare, per rendere la cosa anche più divertente, come anche faccio a scuola, peraltro. E quindi, insomma, non ho drammatizzato. Però... quasi un'estrema unzione, diciamo, questo tuo intervento. Assolutamente, era un modo per accompagnarli dolcemente verso il giardino eterno. Va bene, è interessante questo, è una cosa nuova almeno, e l'iniziativa dà un senso comunque anche a una professoressa che c'è sempre davanti persone svogliate, annoiate, che dico ma che ci importa a noi, persone molto interessate. Salvatore. Buongiorno. A proposito di agriturismo, con mia moglie qualche anno fa prenotiamo un agriturismo, un booking romantico in occasione di San Valentino. Con la moglie? Con la moglie. Cioè sì, tu a San Valentino vai nel posto romantico con la moglie, bravo. Fa onore questo. Sono un po' all'antica io sta cosa. No, ma ti fa onore. Allora niente, noi siamo musicisti per diletto, però suoniamo già i matrimoni, eccetera. Ah, siete una coppia di animatori. Esatto, c'era un bel pianoforte discordatissimo, però ci siamo messi a suonare e poi il... Com'è? Lei canta e tu suoni, così funziona? Sì. E qual è il repertorio? Musica pop, leggera, sia italiana che straniera, fondamentalmente. Fammi il vostro cavallo di battaglia, qual è? Il nostro cavallo di battaglia sono tutte le canzoni di Elisa, andiamo un po' sul classico, quello che poi un po' richiedono il matrimonio. Certo, è chiaro, il matrimonio, la sottofondo del matrimonio. Esattamente, allora niente, il gestore apprezza insomma le nostre qualità e da allora ci propone tutti San Valentino di andare ad animarli, ovviamente in cambio del soggiorno totalmente gratuito, quindi noi ci siamo divertiti. E non puoi allargare, diciamo, tu non puoi raccattarti una vacanza anche di una settimana, secondo te, facendo questo? Perché no? Stiamo pensando, magari anche una bella crociera. A una crociera, però con un comandante di quelli bravi. Però onestamente è impegnativo, perché tutte le sere ce l'avresti impegnate così. Ma io il dopo cena poi quello non era vincolato. Ah, quindi quant'è? Un'oretta? Quanto durava lo show? No, un paio d'ore. Un paio d'ore, però ci sta. Perché noi ci divertiamo, perché poi coinvolgere le persone è una cosa. A voi vi piace, fate un lavoro che vi piace. È molto chiaro. Grazie. Massimo Dall'Aglio, torniamo alla parte ultima del tuo libro, che sono Viaggiare con pochi soldi. Qua entriamo proprio nel campo più stretto e tecnico. Sì. Allora, Viaggiare con pochi soldi è la parte finale, dove praticamente vengono dati dei suggerimenti, sempre dati dall'esperienza di persone che li hanno vissuti. Quindi io non è che incito o racconto o voglio comunque spingere verso una certa direzione, ma do spazio a un mondo nuovo, come hai detto tu, che ritengo che sia un trend che sta arrivando anche qua in Italia, se non è già arrivato da diversi anni, di viaggiare. Ripeto, non è quella classica settimana, due settimane o tre settimane. Richiede un po' più tempo, un po' partire all'avventura, se non il cosiddetto anno sabbatico in certi casi, quindi parliamo di vacanze con un tempo un po' più lungo. Ecco, i consigli sono quelli dal semplice autostop o alla condivisione car sharing, ma addirittura per esempio all'estero l'autostop è voluto, diciamo, è visto piuttosto bene anche dai camionisti, che in Italia le compagnie lo vietano piuttosto. Io pensavo che non esistesse quasi più, non ne vedo più per strade autostoppisti. In Italia sì, all'estero ricevo testimonianze di proprio tantissime persone, soprattutto con i camion, lunghe tratte per non dormire, per chiacchierare, per avere comunque qualcuno con cui condividere il lungo tempo alla guida, accolgono persone. Adesso non ricordo i paesi, in Europa, comunque in Asia, in Cina, in Sud America, tante persone viaggiano con i camionisti perché hanno delle tratte predefinite e quindi è quasi come prendere un autobus, un treno. E questo è un esempio. Tu metti addirittura a viaggiare sui cargo, che era quello che lo sketch di Verdone che avevamo partiti all'inizio. Questa idea del cargo molto romantica, anche se non batte bandiera liberiana, ecco, che alternativa può essere a prenotarsi un viaggio o una crociera? Dall'Italia mi dicono che è molto difficile, piuttosto costoso, è sempre più difficile recentemente, però ritengo, se il punto di partenza, noi partiamo dal punto di vista che il viaggiatore non è il vacanziere che parte da Milano e va negli Stati Uniti, ma magari è in viaggio e quindi deve partire dal Sud America e vuole andare in Oceania, in Australia, e dall'estero per l'estero può essere che trova delle tratte convenienti o delle navi mercantili che ospitano durante il viaggio. L'ultima cosa veloce, dormire gratis, come si fa? Beh, dormite gratis, abbiamo il Couchsurfing, che è probabilmente è il sito più famoso per questo. Il Couchsurfing, c'è il divano, il surfing dei divani, praticamente c'è chi in casa mette a disposizione un divano per i viaggiatori e dice tu hai una notte gratuita lì, poi dopo se mi vuoi a casa dare un cambio, un favore come aggiustare il lavandino, aiutare a cucinare o ti presenti con una bottiglia di vino, però... Allora senti, ti do un appuntamento, Massimo. Siccome questo mi sembra un argomento che da solo merita una trasmissione, la prossima la facciamo assieme sul divano a disposizione. Vediamo in Italia quanti sono disposti e a che prezzo sono disposti a cedere il proprio divano. Alla prossima!